Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ancora non risolta la questione della chiusura della superstrada slovena H4. Le autorità stanno progettando una contingentazione, una regolazione delle entrate dei camion dalla Slovenia per evitare ingorghi a Fernetti, al casello dell'Isert. Nella notte ignoti hanno tracciato scritte Novax sul muro del cimitero di Risano di Pavia di Udine. Individuato dalla Digos l'autore delle scritte offensive all'ingresso del consolato sloveno di Trieste, si tratta di uno sloveno che avrebbe agito per motivi personali. I laureati del mondo delle aziende e le università temono un drastico calo degli iscritti prodotto dall'inverno demografico. Sport, ieri sera la presentazione ufficiale dell'Udinese Calcio per la ginnastica, stasera Tara Dragaš a Rio de Janeiro gareggerà ai campionati mondiali di ritmica inseguendo un grande sogno. La ginnasta di Udine è entrata in finale alla palla, al nastro e all'all around. Buongiorno da Maria Spezia e Walter Scherchi. Iniziamo con il tempo. Nuvolosità variabile sulla regione, le temperature registrate alle 11, a Trieste 24 gradi, mare poco mosso con una temperatura di 25 gradi. A Udine sono stati registrati 23 gradi, a Gorizia e Pordenone 24, a Tolmezzo 22, a Tarvisio 18, 20 a Forni di Sopra, sul Piancavallo 18, a Sappada 14 gradi, sull'Ussari 12, sul Monte Zoncolan 15, agli 24, 23 a grado. La temperatura del mare è di 25 gradi in entrambe le località balneari. Per le previsioni, nel pomeriggio sulla zona montana si potranno sviluppare nuovi rovesci e temporali che verso sera potranno interessare anche la pianura e con minore probabilità la costa. E per le previsioni del fine settimana abbiamo parlato con il meteorologo dell'Osservatorio Meteo dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale, Francesco Sioni. Nel fine settimana, soprattutto nella giornata di sabato, la situazione generale vede una saccatura avvicinarsi da nord, ma comunque solo sfiorare la nostra regione, per cui rimarremo in una situazione non del tutto stabile, ma comunque nemmeno marcatamente instabile. Quindi la giornata di domani probabilmente si aprirà con qualche rovescio e qualche temporale nella notte verso la bassa pianura e la costa, in seguito una pausa dalle piogge durante la mattinata, quando ci saranno possibilità anche di schiarite, specie verso la pianura e verso la costa. Poi domani nel pomeriggio nuovamente qualche rovescio e qualche temporale si svilupperà sulla zona montana e potrà essere portato dalle correnti in quota verso la fascia orientale. Comunque rovesci temporali sparsi, molto localizzate e appunto di breve durata, con massime in pianura attorno ai 25-27 gradi, sulla costa tra i 23 e i 25. Domenica un ulteriore miglioramento, una giornata ancora più stabile con l'ingresso di bora sulla fascia orientale, che sarà in generale moderata a più raffiche sostenute a Trieste. Nel corso del pomeriggio sulla zona montana, comunque specie verso la fascia alpina, la possibilità di qualche pioggia, ma comunque anche in questo caso di breve durata e di debole intensità. Le temperature saranno leggermente sotto la norma del periodo, appunto in particolare nella giornata di domani appunto si avranno le minime più basse. Poi già a partire da lunedì, con una situazione più soleggiata, già le temperature in parte risaliranno, con massime lunedì già attorno ai 25-28 gradi sulla pianura. Gli ingorghi al valico di frontiera di Fernetti, ingorghi al casello autostradale dell'Isert, ingorghi di camion si stanno aggravando. La crisi del traffico in provincia di Trieste è stata provocata dalla chiusura della bretella autostradale Vrtojba-Razdrto, decisa dalle autorità slovene per lavori per le prossime ore e per questo fine settimana. Da Bollino Nero si teme che l'esodo e il controesodo dei turisti possa peggiorare la situazione. Sono previsti almeno 190.000 transiti di automobili. In gergo tecnico si dice laminazione del traffico. Nella sostanza significa contingentare gli ingressi di mezzi pesanti dal valico di Fernetti verso il raccordo autostradale 13, direzione dell'Isert e dell'autostrada A4. Non più di un tot di tir e di corriere ogni ora, a seconda della mole totale del traffico giorno per giorno, e comunque non più di quanti possono passarne per la barriera autostradale di Trieste senza creare code chilometriche. È il provvedimento a cui stanno pensando le autorità autorità per mitigare il collasso della viabilità nell'area del Carso e del litorale triestino. Negli scorsi giorni fino a 3.000 mezzi pesanti in più rispetto al solito sono passati dal valico di Fernetti per via della chiusura per lavori della superstrada H4 in Slovenia nella valle del Vipacco direzione Gorizia, con chilometri di coda sia al confine di Stato di Fernetti sia all'Isert, dove le quattro porte d'ingresso in autostrada non sono sufficienti per questa mole di traffico, e viabilità congestionata anche sulle altre strade extraurbane tra Trieste, Duino Aurisina e Monfalcone, dove si è riversato buona parte del traffico leggero ordinario. Per facilitare i passaggi a Fernetti, dal 1 settembre partiranno lavori straordinari di riasfaltatura dei due piazzali e della sottostante bretella che porta al raccordo autostradale triestino, lavori che la regione ha affidato ad Autostrade Alto Adriatico in via del tutto eccezionale, dal momento che quel tratto è di competenza dell'ANAS. In particolare, la concessionaria autostradale si occuperà della progettazione dell'intervento e della ricerca della ditta a cui affidare i lavori. L'intervento dovrebbe migliorare il deflusso del traffico al valico, permettendo di separare su due diverse corsie, una per i mezzi pesanti, una per quelli leggeri, i controlli di polizia al confine. Per quanto riguarda la laminazione del traffico al vaglio della cabina di regia in prefettura a Trieste, non si tratta di una soluzione definitiva, sottolinea l'assessore regionale alle infrastrutture Cristina Mirante, ma solo una mitigazione della situazione. La collaborazione da oltre confine non c'è stata, denuncia Mirante. Avevamo chiesto che parte del traffico pesante venisse fatto defluire su strade ordinarie slovene in orari di basso afflusso, per esempio di notte, ma ci è stato detto di no. Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca: una o più mani ignote hanno imbrattato nella notte il lato esterno del muro di recinzione del cimitero di Risano, una frazione di Pavia di Udine, a una decina di chilometri a sud del capoluogo friulano. Sono apparse grandi scritte rosse alte oltre 2 metri, si nota il logo di un noto gruppo Novax nato ai tempi del Covid, e si leggono affermazioni riconducibili al mondo del complottismo, fondate su teorie prive di basi scientifiche alimentate su internet. Sul posto agenti della Digos, della questura di Udine e polizia locale. Il sindaco di Pavia di Udine, Beppino Govetto, ha annunciato la presentazione di una denuncia e ha condannato il gesto. Govetto ha parlato di profanazione e si è attivato per ingaggiare un professionista che dovrà cancellare le scritte. I costi saranno a carico della collettività, a meno che non venga individuato il responsabile. La scelta del luogo appare strategica perché il cimitero è ben visibile dall'autostrada A23 in giorni ora di grande traffico. Un episodio simile è avvenuto il mese scorso al cimitero di Feletto Umberto, non lontano da Udine. E di nazionalità slovena, il presunto autore delle scritte offensive contro il consolato sloveno apparse nelle scorse settimane a Trieste. Già noto alla polizia, l'uomo è stato identificato e indagato per il reato di diffamazione aggravata dalla discriminazione razziale. Tutto è iniziato il 5 agosto, quando personale della Digos è intervenuto in via del Teatro Romano presso la sede del consolato sloveno per la presenza di un cartello con una scritta offensiva. Analoghi cartelli, ma più piccoli, sono stati trovati anche all'esterno della questura. Anche il 6 agosto la Digos ha effettuato un nuovo intervento presso il consolato per un altro cartello affisso nella notte con un'altra scritta. L'11 agosto l'ultimo episodio simile per modalità e strumenti utilizzati sia presso il consolato che all'esterno della questura. Le indagini della Digos di Trieste, diretta dalla procura, hanno consentito sia attraverso l'analisi dei filmati dei sistemi di sorveglianza sia ad una intensificazione del controllo del territorio di identificare l'autore. Quest'ultimo, da quanto appurato, sarebbe stato guidato da un personale risentimento verso le autorità slovene. L'episodio quindi non sembrerebbe originato da intenti xenofobi o politici. Passiamo all'economia. Dopo mesi di incertezze, confermati dazi al 15% per le esportazioni europee verso gli Stati Uniti per la stragrande maggioranza dei prodotti. Un punto fermo che però non soddisfa le imprese italiane. Negativo anche il parere di Confindustria Udine, secondo cui l'unico dazio giusto è il dazio zero. Una dichiarazione congiunta di Stati Uniti e Unione Europea di ieri ha confermato quello che sostanzialmente era già emerso sui dazi il 27 luglio con l'accordo siglato tra Donald Trump e Ursula von der Leyen, cioè si passa dal 10 al 15% per la grande maggioranza dei beni, con alcune eccezioni, per esempio acciaio e alluminio restano al 50% e scendono dal 27,5% al 15% invece i beni legati all'automotive. È un accordo che vi soddisfa? Lo chiediamo al direttore di Confindustria Udine, Michele Nencioni. No, non ci soddisfa perché secondo noi il dazio giusto è dazio zero, con alcune eccezioni. Ovviamente l'automotive, come dicevo, è passato dal 27,5% al 15%, però non ci dimentichiamo che prima del 25 aprile era al 2,5%. Inoltre ci sono stati degli impegni assunti dall'Unione Europea, che sono quelli di investire 750 miliardi di dollari al 2027 in prodotti energetici americani, fra cui il GNL USA, che ad uso industriale costa circa 30, 40, 50% in più del gas naturale, e poi investimenti per circa 600 miliardi di dollari nel suolo americano da realizzare entro il 2029. Quindi è un accordo che non ci può soddisfare. Quali impatti si sono già visti in questi mesi di incertezze e quali impatti si potrebbero vedere adesso sull'economia della provincia udinese? Ma l'incertezza di per sé è un elemento molto negativo per l'economia, quindi questo ha rallentato di gran lunga gli investimenti, che nel caso delle piccole e medie imprese si sono addirittura annullati. Le grandi imprese invece stanno continuando con gli investimenti, quindi l'incertezza porta un cattivo sentiment nell'economia. L'economia della provincia di Udine, almeno dell'industria, rimane ancora molto solida, però chiaramente l'incertezza rimane, ancorché con Trump siamo abituati a non vedere mai il punto fermo. Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Da Union Camere arriva l'allarme per la carenza nel prossimo quinquennio di laureati in materie scientifiche, i cosiddetti STEM, in grado di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro. Ma si tratta di un rischio concreto anche in Friuli Venezia Giulia? E come scegliere una facoltà universitaria che garantisca buone possibilità di impiego? Lo abbiamo chiesto a Guido Bortoluzzi, delegato della rettrice dell'Università di Trieste per i rapporti con le imprese e il territorio. Si è parlato in questi giorni di una possibile carenza nei prossimi anni, soprattutto di laureati STEM. È un rischio che esiste? Beh, indubbiamente il rischio esiste, perché siamo già alle porte, se non dentro, all'inverno demografico. Quindi il rischio concreto naturalmente c'è, questo naturalmente al netto di eventuali saldi migratori. I numeri dell'Università di Trieste sono però buoni al momento, nel senso che i numeri sia di iscritti che di laureati sono decisamente in crescita per il momento, però ovviamente ci stiamo preparando anche all'evenienza meno buona. Quindi è un rischio più legato alla questione della denatalità che alle scelte di percorsi universitari? Sicuramente un rischio fortemente legato alla denatalità, perché le scelte dei ragazzi sono piuttosto stabili. Stavo guardando proprio in questi giorni quelli che sono i dati relativi agli iscritti e ai laureati nelle discipline STEM e in tutto il resto, e devo dire che sono sostanzialmente stabili in termini percentuali, ma come dicevo sono invece ampiamente in crescita in termini assoluti. Quindi non è tanto una questione di scelte, ma è una questione proprio di numeri. C'è una differenza fra le aspettative delle imprese e quelle degli studenti? Molto spesso gli studenti non sanno quali sono le aspettative delle imprese, e anche per questo cerchiamo di organizzare degli eventi, proprio perché gli studenti e le imprese si possano confrontare e conoscere quali siano le aspettative. Certamente le imprese hanno delle aspettative di breve termine, che sono legate alle contingenze, cioè alle esigenze che loro hanno in questo specifico momento. Ma noi come sistema universitario non dobbiamo necessariamente solo seguire le contingenze, che naturalmente rimangono importanti, ma anche formare gli studenti a imparare nel lungo termine, a cambiare e quindi a evolvere le loro competenze nel medio-lungo termine. Si possono dare delle indicazioni su quelle che saranno le lauree più richieste nei prossimi anni? È molto difficile dirlo, perché se è pur vero che in questo momento storico vanno le STEM, non è detto che questa cosa continui necessariamente tra 5-10 anni. Quindi fare previsioni è davvero azzardato. Quel che è importante è sapersi mettere in discussione, quindi imparare la capacità di apprendere nel corso della propria vita lavorativa e quindi rinnovare le proprie competenze per rimanere competitivi all'interno del mercato del lavoro. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. A Clout fa sapere con un comunicato all'amministrazione comunale sono stati avviati 15 cantieri per interventi pubblici per un investimento complessivo che supera gli 8 milioni di euro. I progetti sono in fasi diverse di attuazione, si tratta di lavori che spaziano dalla sicurezza idrogeologica alla viabilità, dall'efficientamento energetico alla valorizzazione di spazi culturali e sportivi. Il quadro che presentiamo, ha detto il vice sindaco Tomè, è il risultato di una visione che punta a coniugare sicurezza, sostenibilità ed economia locale. La piscina Bruno Bianchi di Trieste sarà chiusa da domani fino a domenica 14 settembre per consentire lavori di manutenzione e pulizia dell'impianto. Riaprirà al pubblico e alle attività di nuoto e pallanuoto lunedì 15 settembre prossimo. E siamo allo sport. Ieri sera allo stadio l'Udinese si è ufficialmente presentata ai suoi sostenitori. Il servizio. L'abbraccio dei tifosi, il primo, con la nuova Udinese, quella che sta nascendo, manca ancora qualche tassello, ha infilato 5 successi nelle amichevoli estive e ottenuto il passaggio del turno in Coppa Italia contro la Carrarese. Auspici che gonfiano le speranze, anche se l'obiettivo primario, dopo 31 stagioni di fila in Serie A, rimane la salvezza. La presentazione fa scoprire da vicino i nuovi arrivati. Lennon Miller, centrocampista, il primo scozzese in Friuli. Saba Goglicidze, difensore georgiano. Ex Empoli, Jakub Piotrowski, centrocampista della nazionale polacca, il portiere Alessandro Nunziante e Nicola Bertola, difensore della nazionale Under 21. Giovani talenti su cui punta l'Udinese, aspettando il colpo ad effetto, il sinistro di Nicolo Zaniolo. È un attaccante che possa essere l'alternativa a Davis. Buxa, anche lui polacco, 29 anni, sembra ad un passo. Un arrivederci, quello di Pafundi, che rinnova il suo contratto con il club bianconero prima di andare in prestito alla Sampdoria. Un addio, quello di Pagero, passato alla Cremonese. La prima al Friuli sarà subito uno scontro diretto, lunedì alle 18.30, contro l'Hellas Verona. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. L'azzurra Tara Dragaš dell'associazione sportiva Udinese ASU, che nei mesi scorsi è entrata nelle Fiamme Oro, sta brillando al campionato del mondo di ginnastica ritmica a Rio de Janeiro. Dragaš ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista al suo esordio iridato. Con 84.650 punti, la ginnasta friulana ha centrato l'accesso alla finale alle 18 di oggi con l'ottavo posto, oltre a strappare il pass per le Final 8 a palla e nastro. La sua prova, con esercizi di grande espressività, è stata accolta con entusiasmo e le ha permesso di scrivere il suo nome tra le migliori 10 al mondo. Dragaš è quindi entrata in finale alla palla come terza, al nastro come settima e all'all-around come ottava. La squadra azzurra punta anche su Sofia Raffaeli, già campionessa del mondo a Sofia nel 2022, bronzo olimpico a Parigi 2024, che ha chiuso al quarto posto con 87.350 punti. Le finali, a partire dalle 19.30, saranno in diretta sulla Rai, che garantirà una programmazione alternando dirette su Rai 3 e Rai Sport, oltre che sullo streaming su Rai Play. La cultura, ulteriore riconoscimento alla Biblioteca di Pordenone per la promozione della lettura tra gli adolescenti e i ragazzi. La Biblioteca Civica di Pordenone è tra le vincitrici del bando nazionale Città che legge, iniziativa promossa dal Centro per il Libro e la Lettura, istituto autonomo del Ministero della Cultura. Il bando è finalizzato alla promozione della lettura tra ragazzi e ragazze dagli 11 ai 19 anni, sperimentando varie forme di avvicinamento ai libri, dai gruppi di lettura alla registrazione di audiolibri a letture musicali e libri gioco fino ai libri senza barriere. Alberto Parigi, assessore alla cultura. Questo riconoscimento continua un percorso, ci consente di continuare un percorso fatto di laboratori, di incontri, di presentazione di libri, di letture. Ci consentono di promuovere la lettura nei confronti di tutti, dai 0 ai 100 anni, comprese anche le persone magari in difficoltà, con disabilità, quindi letture per non vedenti, per soggetti autistici. Io devo ringraziare il personale della biblioteca perché in questo senso ha veramente concretizzato gli indirizzi che dà l'amministrazione. Nell'antico edificio che nel Settecento fu convento dei Domenicani e che nei secoli fu anche caserma, scuola e tribunale e che oggi ospita la biblioteca cittadina, le presenze sono in costante crescita a 184.000 nel 2024. Intanto la macchina di Capitale della Cultura è al lavoro per avviare un nuovo percorso di mostre diffuse in città, per la prima volta anche alla Casa del Mutilato, in vista di Pordenone Legge. Pordenone, Natascia Gargano, TGR. Friuli Venezia Giulia. Il comune di Staranzano insieme ad alcune associazioni ha organizzato questa mattina in municipio una conferenza stampa per presentare due iniziative: la festa dell'uva che si terrà il 7 settembre a cui la domenica successiva seguirà la remada longa. A raccontarci i dettagli delle due feste è il sindaco di Staranzano Marco Fragiacomo. Sono due eventi tradizionali della Sagra delle Razze riproposti quest'anno dopo qualche anno di pausa. La festa dell'uva si terrà domenica 7 settembre a Staranzano, con sfilata di carri agricoli e trainati da trattori sia d'epoca che moderni, costumi bisiacchi e pigiatura dell'uva, seguita da attività di beneficenza come la vendita di dolci. La remada longa invece si svolgerà sabato 13 settembre. È una storica gara di imbarcazioni tradizionali, le battele, tra le contrade di Staranzano. Al mattino presto si svolgerà anche la pedalata longa, un'escursione in bicicletta accessibile anche a persone con disabilità, grazie all'uso di tandem, eccetera. La giornata si concluderà con un pranzo a Punta Barene e alle 20 ci sarà nella stessa località un concerto dei Green Waves. Sindaco Fragiacomo, lei è un agronomo ed ha a lungo, tra l'altro, insegnato nelle scuole per periti agrari. Per la festa dell'uva ci sarà anche una sfilata di trattori storici. Uno dei problemi della nostra agricoltura è la sicurezza delle macchine agricole. Ci può dire qualche cosa al riguardo, fare un confronto tra i trattori della sfilata storici, ma molti di questi sono ancora in uso, e le macchine più nuove, più recenti? I trattori storici, pur essendo spesso ancora in uso, sono meno sicuri perché mancavano dispositivi come la barra antiribaltamento, cinture di sicurezza e cabine protettive utili anche nel caso si facciano i trattamenti antiparassitari. Questo li espone più a incidenti gravi, soprattutto in caso di ribaltamento. I trattori moderni invece integrano molte tecnologie di sicurezza come cabine chiuse, sistemi elettronici di controllo e frenata, che riducono i rischi e proteggono meglio l'operatore. È importante perciò per chi usa mezzi storici fare manutenzione e valutare l'aggiunta dei dispositivi di sicurezza per ridurre il rischio di infortuni. Segnaliamo ora alcuni appuntamenti culturali di oggi. Il Festival di Arte di Strada Artalort propone lo spettacolo Appeso a un filo della Compagnia Internazionale di Filippo Marionette a San Daniele del Friuli, nel giardino della Biblioteca Guarneriana, alle 17.30. Altro appuntamento, quello con Variations a Moruzzo, in via Canonica, alle 21. Il cartellone della società cooperativa Orto Teatro propone oggi il laboratorio, il luogo magico di racconti, letture e giochi a Sappada Vecchia in Borgata Hof, alle 15. Altro appuntamento, sempre oggi, quello dello spettacolo La Principessa Rapita a Pordenone, in piazza della Motta, alle 21. La prima edizione del festival Movimento Osservazione Suono Territorio Most, organizzato dall'associazione Topolò in calendario fino a domenica, verrà inaugurata con l'apertura dell'installazione a Topolò di Grimacco alle 17, a seguire il concerto per pianoforte e sintetizzatore analogico di Thomas Lane al giardino di Casa Piuova alle 19.30. Si intitola Un mare di corone, l'evento che unisce i sapori regionali a una selezione di 150 vini provenienti da tutta Italia in una cena organizzata dallo chef Davide Pacelli, che racconterà il territorio attraverso le sue eccellenze, dai fasolari di Marano Lagunare al formaggio Montasio, a Lignano Sabbia d'Oro, al Pineta Beach Restaurant alle 20. Una notizia che fa acquolina e quindi all'ora di pranzo è adatta. Ed era anche l'ultima notizia di questo notiziario, di cui l'aspetto tecnico è stato curato da Vida Romanese, in redazione Edoardo Veglia, in studio Maria Spezia e Walter Scherk. Vi auguriamo una buona e serena continuazione della della giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. We'll be right back.